La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Puntuali come ogni sabato, eccoci a raccontare tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea, a partire come sempre da quello nelle sale cinematografiche. Un saluto da Franco D'Assisi, una settimana con qualche buon film che arriva nelle sale di giugno che somigliano a quelle dell'autunno, almeno per quello che è successo meteorologicamente durante la settimana, e quindi, come dire, sicuramente presenze che continuano nei cinema, anche con film che stanno ottenendo un grande risultato, a partire dalla Pazza Gioia di Birzì, che ha superato i 3 milioni di euro di incasso globale e continua a essere giorno per giorno sempre il secondo film più visto, quando non il primo. E quindi questo ci dimostra che anche con la stagione estiva o primaverile si possono fare buoni incassi se la proposta è forte. Speriamo che sia forte anche quella di questa settimana. Tuffiamoci subito nel clima dei nuovi film, delle nuove uscite di questo weekend, che sono 7, ne parleremo, ne abbiamo scelte 5, ci sembrano le più importanti, a cominciare da un Colossal che promette di inaugurare una nuova saga. Si tratta di Warcraft è un videogame che molti ragazzi soprattutto conoscono, è un gioco molto molto diffuso che diventa film con la regia di Duncan Jones, con una storia potentissima di guerra fra orchi e umani e anche fra orchi cattivi e orchi buoni. Per anni il nostro mondo è stato in pace, ma ora c'è qualcosa. Lo sento. Forze oscure aleggiano su di noi. Ritirate! Trovate queste bestie, ovunque esse siano. Perché sei qui? Per salvare il mio popolo. E allora, questa la clip, queste le atmosfere di Warcraft, la storia di un regno, il regno di Azeroth, un regno pacifico guidato da un re molto umano che riesce a far stare insieme le varie componenti e le varie realtà, diciamo così, etniche o razziali di questo regno sconfinato, sottoposto a un gran consiglio che però ha una sorta di santone, una sorta di guru, di grande mago Mediv, che guida, diciamo, con la magia benevola tutto questo regno. Tutto cambia nel momento in cui da un portale tanto immaginario quanto potente quanto grande, questa terra viene invasa da una orda di orchi che necessitano delle vite umane per cibarsene, un po' come facevano i dissennatori di Harry Potter, vi ricordate, no? Che ti toglievano l'anima, praticamente la vitalità. Ecco, questo succede, ma succede anche che anche fra gli orchi c'è il bene e c'è il male, e uno dei punti principalmente positivi di questo film è di non fare del manicheismo, di non fare solo il bianco e il nero, e chiaramente si fa fatica ad affermarlo, questo bene e questo male. Ci sarà un grande melting pot di interessi e di alleanze per cercare di sconfiggere chi da buono diventa cattivo e per far prevalere chi da cattivo diventa buono. Questo è un po' Warcraft. Se avete visto Il Signore degli Anelli, le varie saghe fantasy, eccetera eccetera, sicuramente ritroverete un po' del mondo che vi interessa, anche un po' dello Star Wars, della forza, eccetera eccetera. Lo troverete in una versione abbastanza convincente, devo dire, per essere una nuova saga, per avere il cinema in fondo detto praticamente tutto di queste storie. Ebbene, troviamo in Warcraft, che ha alle spalle un videogame molto popolare, non ha alle spalle una base letteraria molto forte, sicuramente un lavoro che al cinema mi pare di poter dire renda piuttosto bene. Boris Sollazzo in collegamento con noi, non lo mettiamo dalla parte degli orchi, lo mettiamo dalla parte dei buoni. Però Boris, ti è piaciuto questo Warcraft? Beh, assolutamente sì, è un film molto molto interessante, anche perché era pieno di trappole. Fino adesso tutto ciò che veniva dai videogiochi aveva convinto molto poco per diversi motivi, tra cui il fatto che appunto la costruzione anche narrativa e visiva di un videogioco ha delle regole che difficilmente si confanno al cinema. Vero è che negli ultimi anni, anche se Warcraft è un gioco dalle grandi tradizioni, si è cercato proprio in quell'ambito di affrontare in particolare le saghe con una scrittura estremamente cinematografica, e questo si vede. Dall'altra parte c'era un Duncan Jones che doveva affrontare questo film da tempo, che aveva avuto molti problemi di produzione, molti problemi di budget, Hollywood, quella parte di Hollywood che aveva puntato su di lui e su questo adattamento era rimasta in scacco per molto tempo, sembrava anche che potesse esserci la possibilità che non uscisse più. Però Warcraft è la prova di maturità che noi ci attendevamo da Duncan Jones, che è forse uno dei pochi grandi geni usciti dal cinema moderno. Commune e Source Code aveva dimostrato di essere straordinario quando doveva raccontare grandi storie con piccoli budget, con grandi idee e pochi soldi, una produzione che si accontentava anche solo di una location, spesso al chiuso, un'astronave o appunto una sorta di macchina del tempo, ecco, per chi non ha visto Source Code non facciamo spoiler. Warcraft è tutto il contrario, Warcraft è una grande storia fantasy che mette in campo effetti speciali, è una produzione straordinaria, e vince Duncan Jones, vince perché di questi orchi tu ti innamori subito, in particolare di Paula Patton che riesce a essere sexy pure nelle vesti di un orco, ti commuovi se vedi un orco neonato, entri subito in empatia con questi personaggi scritti benissimo, e soprattutto per due ore tu non ti stacchi dalla poltrona, ti appassioni e sembra di fatto di vedere un Avatar, ma in cui ci sono gli orchi a posto degli omini azzurri. E mi spingo a dire addirittura che forse Duncan Jones è più bravo, proprio perché ha più penalità, tra virgolette, di Cameron stesso. L'unico piccolo difetto, ma è davvero un piccolo difetto, è che ogni tanto Duncan Jones cerca l'epica, e proprio per la struttura narrativa del film e anche per i suoi personaggi che non spingono ad essere epici, lì c'è un piccolo fail, lì c'è una piccola caduta, ma è davvero un dettaglio. A me sembra un film molto interessante e secondo me apre una nuova grammatica cinematografica, perché finalmente i videogiochi sono più cinematografici e non so se il cinema, ma questo è un complimento in questo momento storico, è anche un po' più videogioco. E tra l'altro apre anche sicuramente una nuova saga, perché senza spoilerare nulla il film finisce veramente in una maniera molto molto aperta, e quindi aspettatevi Warcraft 2 eccetera eccetera, ma intanto andate a vedere l'uno perché davvero merita, al di là di della generazione e a cui appartenete, al di là della passione per i videogame che potete avere o meno. Ci condurrai da loro? No. Ci condurrai da loro? O finirai come il tuo amico nella gabbia? Credi di farmi paura? Gli orchetti fanno molta più paura di te. Non vogliamo farti paura, Garona. Vogliamo proteggere la nostra gente, le nostre famiglie. Se ci aiuti, ti do la mia parola. Ti lascerò libera. A questo punto noi diamo la linea alla regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco parliamo di Eddie the Eagle. SMAO Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea. Dopo l'inizio con Warcraft ci spostiamo in una storia che ha a che fare un po' con lo sport. Evidentemente è un periodo felice per il cinema che racconta le vicende e i personaggi dello sport. È uscito settimana scorsa con gran pompa magna il film Pelé, e adesso tocca a un film che si intitola Eddie the Eagle. Sentiamo la clip e poi ne parliamo. Da che io possa ricordare, campione, ho sempre avuto l'ambizione di diventare un olimpionico. Eddie, tu non sei un atleta! Hai ragione, non andrò mai alle Olimpiadi. Io andrò alle Olimpiadi invernali. Tu non sarai mai all'altezza delle Olimpiadi. Facciamolo! Ho davvero bisogno di un allenatore! E allora, l'avete sentito, il clima è quello chiaramente della commedia, però il film è ispirato a una storia vera, la storia di Eddie Edwards, detto Eddie the Eagle, l'Aquila appunto, che è stato il primo saltatore con gli sci della storia della Gran Bretagna. Ora, la Gran Bretagna, come immaginate, non ha una grandissima tradizione di sci alpino e tantomeno di salto con gli sci o di sport invernali, però in questo caso questo ragazzo si era talmente innamorato di questo sport che riuscì a rappresentare il suo paese alle Olimpiadi Invernali di Calgary nel 1988, ad allenare questo personaggio strano, questo raro saltatore con gli sci inglese, era stato Chuck Bergon, che in questo film è interpretato da Hugh Jackman. E quindi il cast: Hugh Jackman, Christopher Walken, Taron Egerton, che appunto interpreta Eddie, è un cast sicuramente di nomi importanti per un film che, come dicevo, sceglie il tono della commedia, Boris, e che forse lo fa con un filo di didascalismo di troppo rispetto a questo tipo di storie. Hai ragione, probabilmente è fin troppo didascalico e aggiungiamo anche pieno di cliché, però forse è proprio questo il suo segreto, perché Eddie the Eagle non vuole mai essere un film originale, vuole più essere forse un incrocio tra una puntata di sfide con Runnings per quanto riguarda l'aspetto della commedia, e Rush in quei momenti epici sportivi in cui Eddie cerca il suo obiettivo. Il segreto poi è trovare quello che avevamo trovato anche in Cool Runnings, che è il padre di tutti questi film sportivi, cioè nello sport, in particolare alle Olimpiadi, l'importante non è vincere ma partecipare, soprattutto se decidi di affrontare qualcosa che nessuno immagina tu possa fare. E qua vale sia per il personaggio in sé, che non viene considerato un atleta, l'abbiamo sentito nel trailer, sia per la nazione, che non ha una tradizione in questi termini. E quindi la storia diventa una favola immediatamente, non c'è bisogno di una medaglia per parteggiare per Eddie. Dexter Fletcher, secondo me, individua proprio in questo la sua forza. Prende una regia e una sceneggiatura molto chiare, molto lineari, le porta avanti, ha la fortuna di avere un cast di quelli blindati, cioè che ognuno fatto di attori che fanno il loro compito e lo fanno bene, anche obbedendo alle loro facce, alle loro espressioni, al loro carisma. E questo compito va poi in porto, perché quello, il segreto vero di questi film sportivi, di questi biopic, non è tanto il valore artistico cinematografico quanto la capacità di coinvolgere il pubblico. E il pubblico, io sfido io chiunque vada a vederlo, qualsiasi pubblico decida di andare a vederlo, uomini, donne e bambini, a non essere coinvolti da quest'aquila che vola straordinariamente. E devo dire, sia la produzione sia il regista si impegnano sull'unico banco di prova che poteva rovinare il film, cioè le immagini del salto in sé, le immagini sportive. Di solito il cinema sportivo cade esattamente nel momento in cui cerca di rappresentare lo sport. Qui le riprese sono grandiose, il modo anche di montarle sono ottime, e quindi tu entri anche all'interno della dinamica sportiva. Quindi è un film semplice, fin troppo semplice, è un film pieno di cliché, è un film didascalico, ma forse era proprio questo che volevamo da una storia così. Alla fine ti risulta divertente, coinvolgente e anche commovente. E mi sembra che possa bastare, soprattutto per un'uscita del 2 giugno. Assolutamente, assolutamente. Infatti è un film che poi ha i suoi stilemi, non cerca di cambiare i paletti di un racconto cinematografico di questo genere, però il racconto c'è sicuramente, la storia è bizzarra. Hai fatto bene a nominare Cool Runnings, che raccontava i bobbisti giamaicani, che erano una contraddizione in termini, se vogliamo, un po' come il saltatore con gli sci britannico. Questo è Eddie the Eagle. Allora, noi siamo arrivati alla prima traccia del film misterioso di oggi. Come sempre vi regaliamo due DVD o due Blu-ray, molto più spesso per i nostri due ascoltatori più veloci a indovinare un film, che da questa settimana, e ve lo dico subito perché è una piccola rivoluzione, sveleremo subito, anziché rimandarvi alla prossima settimana. La soluzione del game arriverà alla fine della nostra puntata, sarà l'ultima cosa che vi diciamo, che film, con che film abbiamo giocato. I vincitori li comunicheremo la settimana prossima, ma il film lo comunicheremo subito, anche perché c'è chi magari non riesce a giocare al momento perché non ha sotto mano un telefonino, un computer, e chiaramente ci ha detto però vorremmo anche saperlo subito. Benissimo, sarete accontentati a partire da questa clip. Sai, stavo pensando. Quindi pensi? Perché stiamo bene insieme? E perché? Beh, La tua pazzia fa scopa con la mia. È da orgasmo. Mm. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, dovete scriverci il titolo del film e il vostro indirizzo a larosapurpurea@radio24.it per provare a vincere appunto una delle due copie Blu-ray del film che sveleremo fra poco, ma fra poco vi faremo ascoltare anche un'altra traccia. Cambiamo decisamente genere, tornando alle uscite di questa settimana, per un film che ha avuto grande battage, diciamo di qualità, arrivando nelle nostre sale cinematografiche. Parliamo del film che si intitola Tra la terra e il cielo di Neeraj Gaiwan, un film tutto ambientato sulle rive del Gange che ci porta ancora una volta uno spaccato dell'India contemporanea. Nascondi queste stelle nel profondo dei tuoi occhi. E poi? Come poi? È finita. Oh, scusa, non l'avevo capito. Comunque la poesia letta da te è fantastica. Quanto sei scemo. Mi vuoi sposare? Ho paura che la mia famiglia non ti accetterà mai. Troverò io i soldi del riscatto. Te ne andrai, vero? Sì. E allora, un film passato a Un Certain Regard, al Festival di Cannes, un film importante, Boris, perché racconta, come dicevo, l'India contemporanea con qualche, magari con un ritmo diverso da quello di The Millionaire, tanto per intenderci. C'è meno la lotta contro il tempo, ma c'è più il racconto del tempo, se vogliamo. Questa volta questo fiume, il Gange, il fiume sacro dell'India che... come dire, fa un po' da grande padre, da grande narratore di uno spaccato contemporaneo dove i giovani sono forse quelli che soffrono di più, quelle che sono le come dire, i retaggi ancestrali e culturali di questo importante paese, di questo grande popolo che sta lottando con la modernità, e a farne le spese sono soprattutto i più giovani e soprattutto le più giovani. È un po' questo, diciamo, il senso di questo film. Assolutamente sì. Qui c'è un grande personaggio che è il Gange, visto non solo come fiume straordinario per grandezza, per importanza storica, ma anche come entità spirituale che in qualche modo ha in sé tutto ciò che avviene all'interno di una cultura come quella indiana e che può sporcare, perché il Gange, come sappiamo, ha un grosso inquinamento, ma può anche purificare. Il film è molto molto interessante perché ha due linee narrative, parte da una tragedia e soprattutto ha una figura come quella di Devi estremamente atipica per quanto riguarda il racconto dell'universo femminile nel cinema indiano. Vi faccio un esempio: la prima volta che incontriamo Devi, lei sta guardando un porno, e potete immaginare quanto questo possa essere lontano non solo da The Millionaire ma da qualsiasi fotografia dell'India cinematografica che noi conosciamo. È un film molto complesso nel raccontarlo, non nel racconto invece, che è abbastanza semplice, fin troppo secondo me, nella seconda linea narrativa, cioè nel raccontare le conseguenze e la corruzione che seguono a un lutto, a una tragedia estremamente forte, che non vi rivelo perché fa parte in maniera potente, insomma, del crescendo del film. E lì probabilmente la complessità di portare avanti con uno stile asciutto e allo stesso tempo però anche incredibilmente etico e fortemente d'impatto non riesce sempre. Riesce più fino a quando noi seguiamo Devi, questa figura femminile così interessante, sia per il valore dell'attrice sia per l'originalità dello script, meno quando seguiamo invece la seconda linea narrativa del ragazzo coinvolto in questa tragedia, dove la retorica in qualche momento arriva, dove in qualche modo si fa fatica ad uscire invece dal cliché. Sicuramente l'idea del soggetto e la scrittura della sceneggiatura sono di alto livello, il regista è bravo, l'attrice protagonista anche, bisogna forse migliorare per quanto riguarda sia i ritmi della narrazione, sia forse in qualche coraggio visivo in più, soprattutto nella chiusura del film. Però è davvero un film molto molto interessante, perché noi siamo abituati a un'India che o è Bollywood o è la visione di un esterno rispetto all'India, oppure è un film d'autore che cerca di uscire dall'India. Qui invece siamo da un'altra parte, cioè siamo nell'India vera e propria, raccontata con un occhio completamente diverso e probabilmente trascinata nella modernità. Si può sapere perché ti sei licenziata? Dimmi la verità, c'è sotto qualcosa? Non c'è niente. Non c'è niente, non lo so, sempre le solite stupide risposte. È questo il modo di ripagarmi? Non ti ho fatto mai mancare nulla, è vero o no? Anzi, hai avuto tutta la libertà che volevi e questo è il risultato. Io non ho fatto niente di male. Tu mi hai rovinato. Ho dato via tutti i miei risparmi e tu lo sai. Vivo nel terrore che possano paragonare mia figlia a una poco di buono. Non potrei mai sopportarlo, né morirei. Ho deciso di andarmene. Questa mentalità provinciale non riesco più a sopportarla. Perfetto, allora questo è il film tra la terra e il cielo. A questo punto noi andiamo a sentire i consigli della regia. Torniamo insieme perché ci aspetta quello che è sicuramente il blockbuster di questa settimana per quanto riguarda almeno gli attori, la strana coppia, se vogliamo, che popola The Nice Guys fra Russell Crowe e Ryan Gosling, fra poco qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con il film che probabilmente popolerà le sale, speriamo che le popoli, insomma, fino in fondo, sicuramente lo merita, in questo fine settimana, ovvero The Nice Guys di Shane Black con Russell Crowe, Ryan Gosling, per una storia ambientata nella Los Angeles di fine anni 70, una città dove regna, come sempre, come da enciclopedia, la corruzione, la Los Angeles marcia degli anni 70, in un mondo vicino a quello del cinema e quello dell'arte, che viene e scende a molti compromessi. March, facciamo un gioco. Devi aver sbagliato casa. Si chiama chiudi il becco che ti pesto. Che bel gioco. Sei un investigatore privato? Lì ci sono $20, prendili. Non sono un ladro, sono un messaggero. Dammi il braccio sinistro. No! Sì, andiamo. No! Quando parli col medico, no! Digli che hai una frattura spiroide. No! Al respiro. E insomma è uno dei tanti, delle tante gag di The Nice Guys. Dicevamo una Los Angeles nella quale due investigatori piuttosto strani, uno l'avete sentito è Russell Crowe, che di fatto mena la gente, cioè picchia le persone che non si comportano in un certo modo, ma lo fa con grande professionalità, dobbiamo dire, avete visto, avvisa anche di quello che sta per succedere, di cosa dire al medico. Dall'altra parte Ryan Gosling, che se la mena da investigatore invece poi è veramente una sorta di cialtrone con tesserino, e i due per una sorta di peripezie si trovano a indagare sul caso di una giovane attrice, Amelia, una giovane bellissima attrice di film a luci rosse, che da tre giorni non dà segno di sé, in fuga da dei sicari che la vogliono uccidere dopo aver ucciso il suo fidanzato, regista di film sperimentali e artistici. Insomma, il milieu è quello lì, l'avete capito, quasi un po' più da telefilm di quegli anni che non da film, ma sicuramente la regia è da grande cinema, grandissimo ritmo, gag a non finire, un buddy movie che soddisfa lo spettatore. Sentiamo se ha soddisfatto anche il nostro Boris Sollazzo. Ma sì, perché mi viene in mente, rubo una battuta a un collega anglosassone che quando gli ho detto che andava a vedermi The Nice Guys mi ha risposto una parola, sola parola, enjoy, che vuol dire divertiti, farai bene sostanzialmente, ed è esattamente quello che succede con The Nice Guys. Non entrerà nella storia del cinema, probabilmente neanche dalla porta di servizio, se non forse per aver messo Ryan Gosling e Russell Crowe nella stessa coppia, il che non era facile, soprattutto per le differenze fisiche, fisionomiche, e anche per l'apparente mancato assortimento tra i due, e la forza di Shane Black è proprio invece metterli insieme. Tutto quello che ha imparato come sceneggiatore di Arma Letale qui lo mette anche come regista. Lui ci aveva già raccontato un particolarissimo tipo di polar con Kiss Kiss Bang Bang, e adesso lo fa virandolo alla commedia polar muscolare, insomma, quindi sostanzialmente unendo quella sua prova da regista con appunto la saga che lo vedeva come sceneggiatore di Arma Letale. È un film molto efficace, un film appunto che va recensito con la parola enjoy, perché i due si trovano a meraviglia. All'inizio il mancato assortimento è proprio il motore dell'interesse dello spettatore. Loro iniziano male, secondo me in tutti i sensi, sia nella scrittura sia forse proprio nell'apparire allo spettatore come diversi, e finiscono benissimo, perché a un certo punto ti sembra che quella strana coppia sia stata inventata per essere usata anche per altri 10 o 20 film. E poi c'è un altro grande merito, perché è difficilissimo raccontare Hollywood. Prima parlavamo di quanto è difficile raccontare lo sport al cinema, ma anche Hollywood al cinema è molto diverso. Tu lo puoi raccontare come Viale del Tramonto, lo puoi raccontare come Boogie Nights, puoi raccontarlo come i Coen, e in quel caso lo racconti male, ma puoi raccontarlo anche come Black e come Levinson, cioè dissacrandolo, mostrandone la cialtrona umanità che la popola, e mettendo magari su un delitto piuttosto strano una coppia di detective che sembrano degli Starsky e Hutch, molto più abituati da una parte allo slapstick e dall'altra a menare le mani. Tutto questo è come una buona pasta asciutta, molto semplice da cucinare, ma se hai gli ingredienti più adatti, e in questo caso parliamo della coppia d'attori, non hai bisogno di molto, molto altro. In più la condisci con della musica ottima e con scazzottate, inseguimenti che sembrano quasi coreografati su quella musica, e allora basta, perché appunto la pasta asciutta è venuta cotta al dente, probabilmente non sarà mai in un 3 stelle Michelin, ma voi avrete fatto un buon pranzo. Assolutamente, mangiamoci questa pasta asciutta allora, che è il film The Nice Guys. Io mi sono sinceramente molto divertito, e poi non manca sicuramente, come dire, uno sguardo a quello che erano le tematiche, i palazzinari che come dire, si stavano mangiando Los Angeles, la politica. È sicuramente un film con dentro tante schizzi di storia di racconto e di cronaca, in mezzo appunto a una slapstick o a un buddy movie di dannata. E allora la coppia sicuramente è di quelle che funziona in locandina. Vedremo cosa succederà nelle sale con Russell Crowe e Ryan Gosling, protagonisti di Nice Guys. Noi andiamo di nuovo a giocare insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Vorresti mettermelo? Metterti l'anello al dito. Flick e flock. E allora, Flick e Flock, di che film si tratta? L'avete capito? L'avete indovinato? La Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo email, è il modo per partecipare, scrivendo il titolo del film e il vostro indirizzo. Il film lo riveleremo fra pochi minuti. Torniamo da Boris con l'ultima proposta tra quelle che abbiamo scelto per questa settimana, per questo weekend al cinema. Arriva dalla Francia e si intitola Marguerite et Julien. Marguerite e Julien sono fratello e sorella. Julien è il più grande. Per lui Marguerite era più preziosa di un diamante. Marguerite! Julien! Tornate qui! E dopo? Che è successo? Juliette mi ha detto che Josephine l'ha vista al mercato. Non è vero. Sì, invece, ha visto anche che si baciavano. Marguerite. Julienne. Il modo migliore per evitare di peccare è quello di fuggire le occasioni. E allora, è un film che racconta una storia, lo diciamo subito, di incesto, e quindi, come dire, è un tema super tabù da sempre, forse per sempre, nella nostra società. Quindi un tema difficile da affrontare, quello che sceglie di portare sul grande schermo Valérie Donzelli, o Donzelli, per il suo quarto lungometraggio. La regista aveva firmato La guerra dichiarata, forse lo ricorderete. La cosa interessante è che su questo film c'era già stata una sceneggiatura di Jean Gros per François Truffaut nel 1971, ma Truffaut non se la sentì di fare questo progetto, e anche questo dà un po' il senso del film maledetto, se vogliamo, no? Ma la storia che sta alle spalle, la riscrittura è chiaramente moderna, è una storia vera, quella dei figli del signore di Tourlaville decapitati nel 1603 per adulterio e incesto. Insomma, ingredienti forti, restando alla cucina, Boris, sono sempre quelli più difficili da amalgamare. C'è riuscita secondo te la Donzelli? Ma come si fa ad amalgamare un film che mette in campo un amore senza tempo, folle, totale e totalizzante, che già in questi anni è difficile da immaginare e che non a caso si radica in secoli fa. E dall'altra parte un tema come l'incesto, che per quanto si possa essere aperti nel momento in cui ti siedi sulla poltrona e ti rendi conto di quello che sta succedendo, ti mette a disagio. Io devo essere sincero, questo film mi fa l'effetto di tutto il cinema di Valéry Donzelli, una fascinazione estrema per le sfide anticonformiste, direi folli, però allo stesso tempo totalizzanti, che lei affronta, e un'irritazione per quella ricerca di epica sentimentale da feuilleton d'altri tempi. Alla fine io devo dire, Marguerite et Julien è un film di cui non potremmo fare a meno, perché abbiamo bisogno di registi e registe. Secondo me non è un caso in questo caso che sia Valéry Donzelli a farlo, che affrontino sfide impossibili, che alzino un pochino di più l'asticella. Lo fa in questo caso secondo me con uno dei due suoi film più maturi, affronta di petto il tema senza volerlo far diventare scandalistico, tenta in ogni modo di mettere lo spettatore nei panni dei due protagonisti, che forse chiaramente non condanneremmo a morte come hanno fatto nel 1600, ma certo non gli daremmo neanche un premio, e ci pone l'obiettivo non su quello che stanno facendo e su perché dovrebbe essere moralmente o socialmente sbagliato, ma piuttosto su quanto l'amore e i sentimenti che dilagano dentro di noi possano essere arginati dalla ragione. E la risposta è che se sono forti e se sono veri è impossibile arginarli con la ragione. È un film imperfetto, pieno di alti e bassi, con dei momenti in cui si sbaglia il tono, e però è un film che secondo me in qualche modo è necessario per maturare cinematograficamente e andare laddove altri non hanno il coraggio di andare. E allora, diciamo, una proposta comunque importante dentro questa settimana che, lo ricordo, si era aperta con un film di cui avevamo parlato già 7 giorni fa, cioè As is for Stanley, e ne avevamo parlato della storia dell'autista di Stanley Kubrick, che è andato molto bene nei suoi giorni al cinema. Ricordo anche l'uscita, per completare il quadro, di Miami Beach di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Thornton, insomma la consueta Emanuele Popolizio, consueta compagnia delle commedie di Vanzina. Insomma, come dire, una settimana variegata nella quale, Boris, mi sembra ci siano scelte un po' per tutti. Questo Vanzina, tanto per avere 30 secondi per dirlo, com'è? È un Vanzina. Senza sorprese, insomma. Senza tantissime sorprese. A me poi dispiace, perché è un giudizio ingeneroso dire è un Vanzina, perché i Vanzina invece in alcuni casi ci hanno stupito, penso al Pranzo della Domenica, e hanno secondo me nelle loro corde qualcosa di diverso. Qui lo troviamo forse di più nel soggetto del film di Miami Beach, dove c'è la ricerca di qualcosa di più originale. Il problema sono i toni e probabilmente anche gli attori, che vengono usati sempre alla stessa maniera. Ne parlavamo a proposito del film di Boldi qualche settimana fa, e quindi Miami Beach diciamo che ha il pregio e il difetto di darti quello che ti aspetti. Alla fine è un prodotto dalla qualità media, rispetto forse agli ultimi di Vanzina, migliore, quindi insomma se il genere vi piace andate, se non vi piace non troverete nessun motivo per andare. Assolutamente. E allora, questa è la proposta di questa settimana. Boris, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo sabato prossimo. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, nuovamente linea alla viabilità. Sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco parleremo di un grande film di Alfred Hitchcock, uno dei primi film del maestro del brivido, che era Blackmail, che è diventato uno spettacolo teatrale al Ravenna Festival. Ne parleremo con Franco Masotti. Poi tutti i consigli per i film da vedere in casa e la soluzione del film misterioso di oggi. Restate con noi. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digital radio. La rosa purpurea. Listen for the crash of the cymbals. This is such a moment for thought will never be heard. I suoni, le avete sentiti, le parole? Per ricreare un clima di un film che ha veramente una grande storia. Intanto un nome alle spalle, Alfred Hitchcock, abbiamo detto tutto. Poi perché questo film, che è Blackmail, il ricatto nel titolo italiano, se non ricordo male, vado a memoria, del 1929, se lo stanno litigando un po' gli storici del cinema, perché viene considerato l'ultimo film muto, il 29 è proprio l'anno del passaggio del cinema dal muto al sonoro, l'ultimo film muto ma anche il primo sonoro, perché Hitchcock volle una versione sonora, lo fece pensando a questa novità, ma volle anche una versione silent, perché voleva non sconvolgere troppo e comunque avere un pubblico, come quando oggi i film escono in 3D ma anche in 2D, per avere comunque tutti e due i pubblici. Perché vi parliamo di questo giallo straordinario in bianco e nero di Alfred Hitchcock, Blackmail? Perché è diventato uno spettacolo teatrale nell'ambito del Ravenna Festival, che è in corso da qualche giorno, durerà parecchio tempo, fra poco ne parleremo, uno spettacolo che cerca di interpretare i suoni interiori, il clima di questo film attraverso una rielaborazione sonora. Allora, ne parliamo con Franco Masotti, che è il direttore artistico del Ravenna Festival, festival davvero molto prestigioso, che mette insieme le grandi arti, la grande musica, il balletto, ma anche le incursioni nella modernità. E Franco, parto proprio da qui, potrebbe essere questa una delle grandi incursioni nella modernità di questo festival, nonostante la data del film sia 1929. Beh, questo è 1929, erano anni straordinari in cui c'era un'attitudine alla sperimentazione, questo entusiasmo per l'uso delle tecnologie, dal cinema ad altro che probabilmente oggi non ha riscontri. E quindi poi un regista innovatore, visionario, come era soprattutto Hitchcock degli inizi, con un uso del montaggio strepitoso, e si presta a un'operazione come quella poi concepita da Studio Edison, che insomma, con cui abbiamo già collaborato, hanno fatto anni fa una sonorizzazione del primo, uno dei più importanti film muti italiani del 1911, Inferno, e poi anche del gabinetto del dottor Caligari. Quindi in qualche modo l'elettronica, che era qualcosa che Hitchcock allora non aveva, ma viene da pensare che se l'avesse avuta l'avrebbe usata, e come, diventa un esperimento veramente interessante. E questo è The Blackmail Project, tra l'altro, Franco, ricordiamo, è martedì 7 giugno la serata del film, giusto? Sì, ma esatto. Martedì 7 giugno alle 21. Il Palazzo dei Congressi, che è diventato un luogo, un cinema d'essè a Ravenna, e quindi è il luogo deputato per questa operazione. Ravenna, che vive molto durante i giorni del festival, nelle sue bellezze. Voi portate il festival dentro le opere d'arte molto spesso, in scenari particolari. Voglio segnalare uno spettacolo che mi ha molto colpito dal vostro programma, che è questa sorta, noi qui alla Rosa Purpurea siamo molto vicini anche al musical, soprattutto quando il musical è di estrazione cinematografica. In questo caso non possiamo parlare propriamente di musical e non possiamo parlare propriamente di estrazione cinematografica, ma me ne parliamo lo stesso, perché il soggetto di questo spettacolo sudafricano è Nelson Mandela, che è stato soggetto anche di molti film. Raccontaci un po' le date e il perché di questa scelta, di questo spettacolo così colorato, così musicale, che arriva quest'anno al Ravenna Festival. Dunque, le date sono dal 9, la prima è il 9 giugno, dal 9 al 12 giugno al Teatro Alighieri. Ecco, Mandela Trilogy è un tributo, e questo suona anche un po' magari un po' retorico, è comunque un grande omaggio a una delle figure più straordinarie del secolo passato e all'insegna proprio della libertà, ed è qualcosa che sì, è difficile da definire, è un'opera, è una grande opera lirica, ma è anche un musical, è strutturato appunto come, in qualche modo sceneggiato come potrebbe essere anche un film, come dicevi giustamente, perché sono tre momenti chiave della vita di Nelson Mandela. Tra l'altro c'è un secondo atto con un Mandela giovane ancora prima di andare nella lunghissima prigionia, ambientato in un locale da ballo di Cape Town o di Johannesburg, adesso non ricordo, ed è un atto straordinario che è degno della migliore tradizione dei musical, quindi è un'opera che compendia proprio stili diversi con due compositori diversi che si sono prestati e soprattutto quello che è il più importante teatro d'opera africano da Cape Town, con un coro di 30 persone che poi ballano, danzano, cantano, recitano, assolutamente straordinari, quindi è la prima occasione di poterlo vedere in Italia, e questo spettacolo che tanto ci ha convinto, ci ha entusiasmato, ha dato il là l'idea proprio di dedicare un intero festival a Nelson Mandela e a questo concetto di libertà che ci pare di conoscere così bene, ma negli ultimi tempi forse magari è bene rifletterci un po' su. L'abbiamo data un po' per scontata, diciamo così. Ricordiamo allora Mandela Trilogy dal 9 al 12 giugno, giusto Franco? Giustissimo. 9-12 giugno, quindi imperdibile, preparatevi, ravennafestival.org, il sito c'è tutto, Ravenna Festival ha decine e decine di spettacoli, quindi chiaramente per ragioni di tempo non possiamo raccontare tutto qui, ma andatelo a vedere perché è davvero sempre una grande esperienza. Grazie Franco Masotti, direttore artistico di Ravenna Festival. Grazie a tutti voi, arrivederci a Ravenna. E allora, The Black Male Project, il musical su Mandela, le segnalazioni dei film che vedrete in TV la prossima settimana, tutto il cinema da vedere in casa con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Ricordo che fra poco vi svegliamo anche il film misterioso di oggi, non i vincitori, solo il film. Allora, cominciamo però dalla settimana scorsa, dove avevamo giocato con questa traccia. Cerco una ragazzina alta così, capelli neri, un po' irrequieta. No! Ferma! Ma che la prende? Fa malissimo! Perché mi fa questo? Si trattava di uno dei film più belli e secondo me anche più riusciti dell'inizio di questa stagione, ovvero Dio esiste e vive a Bruxelles. Lo hanno indovinato per primi e lo vincono in versione Blu-ray Maria Paola Dosi di Bologna e Vito Miraglia di Matera. Ce lo facciamo raccontare nella sua versione un video da Giulio San Giorgio. Vai Giulio! Sì, è la storia di un dio, ma un dio come se fosse uno di noi, tra l'altro dei peggiori. Scorbutico e cinico, abitante di una grigia a Bruxelles, irritante e con pochissimo senso del dovere, tanto che la figlioletta si convince a scrivere un nuovo testamento tutto suo con tanto di reclutamento apostoli. È il quinto lungometraggio del belga Jacques Van Dormael, un regista con ampio senso per il surrealismo e per i paradossi dell'immaginario, e il DVD il DVD e il Blu-ray hanno un buonissimo riversamento su cui spiccano le interviste tra gli extra e un approfondimento di quel settore tanto deprecato che è il doppiaggio. E allora la nostra proposta della scorsa settimana, invece andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti di questa prossima settimana, partendo da un film di Michael Mann sul grande Muhammad Ali. Parliamo di un film sul mito, parliamo di Muhammad Ali, Cassius Clay, di cui il film di Michael Mann racconta fedelmente le vicende personali di un decennio, dal 1964 al 1974. Lo interpreta Will Smith e Michael Mann, regista che è sempre al passo coi tempi con la tecnologia, ma che reinventa continuamente il cinema in senso proprio umanista, lo racconta sia come uomo sia come pietra fondante di un'identità comunitaria, che è quella afroamericana, in senso politico ma anche religioso. Un grandissimo film. Un film assolutamente da vedere, l'8 giugno alle 21 in prima serata su Iris, Ali di Michael Mann. Il giorno prima, il 7 giugno, su Rai Movie alle 17.35 nel pomeriggio, un capolavoro di Walter Hill come I Cavalieri dalle Lunghe Ombre. Sì, parliamo sempre di un mito, ma questa volta molto meno contemporaneo, ovvero la vera storia di Jesse James, che Walter Hill affronta interessandosi soprattutto alla leggenda, all'aura mitica, tanto che tratta i personaggi del western come se fossero dei cavalieri degli antichi ordini templari. Ne esce una ballata veramente astratta, quella che sembra un'opera grafica sul western, un film stilizzato e metafisico, anche questo a mio avviso bellissimo. E anche di questo ricordiamo l'appuntamento il 7 giugno su Rai Movie alle 17:35. Grazie Giulio, ci risentiamo. Ciao Franco, alla prossima. E allora le note della sigla ci dicono che il nostro tempo è finito, è arrivato il momento di svelare il film misterioso con cui abbiamo giocato oggi. Vorresti mettermelo... Metterti l'anello al dito. Flick e flock. E allora si trattava di Deadpool, il film con cui abbiamo giocato. Settimana prossima sveleremo i vincitori del Blu-ray, lo recensiremo con gli amici di Film TV. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.